Sono qui con Alessia Soverini, delle relazioni esterne della società editrice Il Mulino. Buongiorno Alessia. Buongiorno, buongiorno. Nonostante la pandemia, Il Mulino non si è fermato, ma anzi propone interessantissimi eventi. Raccontaci un po' di dialoghi tra le righe. Grazie intanto di questa opportunità. Dunque, i dialoghi tra le righe sono nati a fine primavera, diciamo, del 2020, quando avevamo delle importanti novità in uscita che purtroppo non avevano la possibilità di essere presentate dagli autori come era invece consuetudine. In questi incontri online abbiamo pensato di dare la parola sia agli autori ma anche agli editor della casa editrice, che sono coloro che seguono da vicino la realizzazione dei libri e ne conoscono bene i contenuti. Inoltre la particolarità è che abbiamo voluto dare la voce ai cosiddetti lettori d'eccezione, ovvero ai personaggi di spicco della cultura, della televisione, della politica, dell'industria, insomma dipende un po' dal tema del libro, che hanno letto in anteprima i volumi e ne hanno voluto regalare qualche suggestione, solitamente registrata, in alcuni casi invece sono intervenuti in diretta, perché la vocazione dei dialoghi, diciamo, non era fare specificatamente una presentazione del libro, ma più che altro un invito alla lettura dello stesso, degli spunti di quanto vi sia possibile trovarci proprio in quel libro e non in altri, magari. Ecco, questa è un po' la filosofia che ha condotto la realizzazione dell'iniziativa. Qual è stato uno degli interventi, magari dei dialoghi che sono avvenuti, che ha riscosso più successo e magari più è stato motivo d'orgoglio per voi? Dunque, gli incontri sono stati numerosi e mi perdonerai se ho difficoltà a sceglierne uno solo. Senz'altro sono stati esileranti gli scambi in cui è intervenuto Alessandro Barbero, in un caso con Andrea Sant'Angelo sulle strategie militari relativamente alla battaglia di Al Alamein, e ancora quando è intervenuto con Chiara Frugoni per il suo libro di paure medievali. Hanno affrontato i temi appunto di paure dal Medioevo, come la peste, la paura del diverso, degli ebrei, insomma, fino alle recenti paure, insomma, date dalla pandemia e comunque dalla paura del diverso che anche oggi si possono riscontrare. Questi sono stati sicuramente molto interessanti, ma ancora il recente omaggio che abbiamo voluto dedicare a Marco Sant'Agata presentando il suo ultimo libro, Le donne di Dante, che è un libro splendidamente illustrato che è uscito purtroppo dopo la sua scomparsa. Ne hanno parlato degli studiosi a lui vicini, amici, allievi, Claudio Giunta, Giulio Ferroni, tre storiche, Marina Montesano, Maria Giuseppina Mozzarelli e Francesca Roversi Monaco, proprio per parlare delle donne di Dante. Poi ce ne sarebbero molti altri, tra i primi che abbiamo fatto quest'estate, quando Carlo Verdone o il cardinale Zuppi sono stati lettori d'eccezione di Andare per la Roma dei Papi di Giovanni Maria Vian. Oppure ancora mi viene in mente il dialogo tra Paolo Rumiz e Giovanni Brizzi sulle vie militari romane. Insomma, uno dei vantaggi offerti comunque da questa formula è la possibilità di vederli anche a posteriori, e infatti dalla homepage del Mulino è possibile raggiungere l'archivio di tutti i nostri dialoghi realizzati e così scegliere il tema anche più in linea con i propri interessi e poterli anche rivedere. Invece, spostandoci a appuntamenti futuri, Brexit tra diritto e politica, di cosa si parla? Dunque, questa sera ci sarà questo incontro alle 18 con l'autore Federico Fabbrini di questo libro che è intitolato Brexit tra diritto e politica. Si parlerà sostanzialmente di come si è arrivati a Brexit e se ne parlerà, insomma, con due relatori di tutto rispetto, perché insomma esperti di questi temi e che ne hanno parlato moltissimo dalle prime mosse, diciamo, quindi Nicole degli Innocenti del Sole 24 Ore e Luca del Post, dialogheranno, porranno delle domande, insomma, all'autore Federico Fabbrini, che ricordo è il direttore del Brexit Institute a Dublino, e ci sarà Nicola Pedrazzi, che è appunto l'editor che ha seguito la pubblicazione, a moderare questo incontro come altro, diciamo, esperto, conoscitore dei contenuti, diciamo. E invece ho notato che tra i nomi degli ospiti futuri figura Massimo Recalcati. Che cosa avete in programma? Abbiamo in programma domani pomeriggio alle 18, ci sarà la presentazione del primo numero della rivista Frontiere della Psicoanalisi. Massimo Recalcati, insieme a Maurizio Balsamo, è direttore di questa rivista, di questa nuova rivista, e domani presenteremo il primo numero con una lettrice d'eccezione della rivista che è Silvia Vegetti Finzi, è stata invitata in diretta, e Federica Bellei invece del nostro ufficio riviste li intervisterà, modererà un po' gli interventi domani di questi tre relatori. Massimo Recalcati sì, è uno dei direttori della rivista, quindi sarà con noi domani. Saranno degli incontri sicuramente molto interessanti. Alessia, io ti ringrazio molto per l'esaustività delle tue risposte, ti auguro buon lavoro e seguirò estremamente con piacere i vostri incontri. Buona giornata. Bene, buon lavoro anche a voi e grazie.